Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tommaso Ragno legge Camera con vista, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Marcella Bonsanti. La mattina dopo, durante la prima colazione, Lucy compì un passo decisivo. Le vennero sottoposti due progetti e dovette optare per l'uno o per l'altro. Il signor Beebe aveva organizzato una gita alla Torre del Gallo con gli Emerson e alcune signore americane. Le signorine Bartlett e Honeychurch desideravano unirsi alla comitiva? Charlotte, per quanto riguardava lei, declinò l'invito. Alla Torre del Gallo c'era andata sotto la pioggia il pomeriggio del giorno prima, ma giudicò magnifica la proposta per Lucy, che detestava girare per i negozi, cambiare il denaro, ritirare le lettere e tutte le noiose faccende consimili che sua cugina doveva sbrigare quel mattino e che poteva facilmente sbrigare da sola. «No, Charlotte», gridò la ragazza con genuino calore, «è molto gentile da parte del signor Beebe. Ma verrò certamente con te, davvero, lo preferisco». «Benissimo, cara», rispose la signorina Bartlett, mentre un tenue rossore di gioia le si spandeva in volto, provocando un cupo rossore di vergogna sulle guance di Lucy. Quanto era abominevole il suo modo di comportarsi verso Charlotte, in quella circostanza come in tutte le altre. Ora però avrebbe agito diversamente. Si sarebbe prodigata per lei durante l'intera mattina. Lucy prese a braccetto la cugina e si incamminò sul lungarno. Quel giorno il fiume era un leone, per impeto, per voce e per colore. La signorina Bartlett si sporse ostinatamente dalla spalletta per contemplarlo. Poi se ne uscì nel suo immancabile commento: «Quanto pagherei perché Freddy e tua madre potessero vederlo anche loro?» Lucy ebbe un moto di impazienza. Era seccante, Charlotte. Per l'appunto lì doveva andare a fermarsi. Charlotte, col beneplacito del fato, la allontanò dal fiume e la condusse in piazza della signoria. Lucy non avrebbe mai creduto che delle pietre, una loggia, una fontana, la torre di un palazzo potessero possedere un simile prestigio. Per un istante comprese la natura dei fantasmi. Il luogo esatto del delitto non era occupato da un fantasma, bensì dalla signorina Levish, che teneva in mano il giornale del mattino e che le salutò con voce concitata. L'orrenda catastrofe della vigilia le aveva dato un'idea che, a suo giudizio, era suscettibile di fornire lo spunto di un libro. «Ah, permetta che mi congratuli con lei», disse la signorina Bartlett, «dopo che ieri era così disperata. Che felice combinazione!» «Lei venga qui, signorina Honeychurch. Oggi ho la fortuna dalla mia. Orbene, deve assolutamente riferirmi per filo e per segno tutto quello che ha visto». Lucy tentava di infilzare nel lastrico la punta dell'ombrellino. «Forse invece preferisce non farlo?» «Chiedo scusa. Se lei potesse arrangiarsi ugualmente, credo che preferirei non farlo». Le signore anziane si scambiarono un'occhiata, non di riprovazione, però. A una giovanetta si addice sentire intensamente. «Tocca a me di scusarmi», disse la signorina Levish. «Noi, letterati da strapazzo, siamo delle creature spudorate. Dubito che esista un segreto del cuore umano in cui sapremo astenerci dal ficcare il naso». Dopodiché marciò allegramente fino alla fontana e tornò indietro ed eseguì alcuni calcoli di realismo. Quindi annunciò che si trovava nella piazza già dalle 8 allo scopo di raccogliere il materiale. Era da scartarsi in gran parte, ma naturalmente occorreva sempre modificarlo. I due uomini avevano litigato per un biglietto da 5 lire. Il biglietto da 5 lire lei lo avrebbe sostituito con una fanciulla, il che sarebbe servito a innalzare il tono della tragedia, fornendo al tempo stesso un intreccio eccellente. «Come si chiama la protagonista?» domandò la signorina Bartlett. «Leonora», rispose la scrittrice. «Lei si chiamava Eleanor. Spero proprio che sia una brava figliola. I suoi desideri saranno tenuti nel debito conto. E qual è l'intreccio? Amore, assassinio, rapimento, vendetta, ecco gli ingredienti della vicenda». Saltarono fuori dal primo all'ultimo mentre la fontana lanciava i suoi zampilli verso i satiri nel sole del mattino. La signorina Levish ebbe un sorriso machiavellico. «Confesso che in Italia le mie simpatie non vanno ai nostri compatrioti. Sono gli italiani negletti che mi attirano, e sono le loro esigenze che dipingerò del mio meglio, giacché ho sempre sostenuto a spada tratta, e non mi stancherò mai di ripeterlo, che una tragedia come quella di ieri non è meno tragica per essersi svolta nella vita degli umili. Allorché la signorina Levis ebbe finito di parlare, cadde un silenzio appropriato. Poi le cugine le augurarono pieno successo nelle sue imminenti fatiche e attraversarono lentamente la piazza. «Ecco il mio ideale di una donna competente sul serio», disse la signorina Bartlett. «Quella sua ultima osservazione, in special modo, mi è parsa così vera. Dovrebbe essere un romanzo eccezionalmente patetico». Lucy assentì. Per il momento la sua mira esclusiva era di non venire messa nel libro. Quella mattina aveva delle percezioni curiosamente acute e sospettava che la signorina Levis la tenesse in prova per assegnarle la parte dell'ingenua. «È emancipata, ma solo nel miglior senso della parola», soggiunse ponderatamente la signorina Bartlett. «Nessuno, a meno che non sia superficiale, si scandalizzerebbe a sentirla. Ieri abbiamo avuto un lungo scambio di idee. Lei crede nella giustizia e nella sincerità e nell'interesse umano. Mi ha detto, fra l'altro, che professa un'immensa fiducia nel destino della donna. Signor Iger, ah, che piacere incontrarla! Che bella sorpresa!» «Non è una sorpresa per me», rispose blandamente il cappellano, «perché vi stavo osservando già da un pezzo. Abbiamo fatto 4 chiacchiere con la signorina Levis». Il signor Iger corrugò la fronte. «L'ho visto, infatti. 4 chiacchiere, eh? Andate via, sono occupato!» Queste ultime parole erano rivolte a un venditore di fotografie artistiche che si stava avvicinando con un cortese sorriso sulle labbra. «E adesso vorrei avanzare una proposta. Sareste disposte a fare una gita in carrozza con me uno dei prossimi giorni? Una gita sui colli? Il mio progetto sarebbe di salire a Fiesole e tornare da Settignano. Su quella strada c'è un punto dove si può scendere dalla vettura e passeggiare per un'oretta lungo il pendio. La veduta di Firenze da lassù è bellissima, infinitamente superiore a quella stereotipata che si ha da Fiesole, ed è proprio la stessa veduta che Alessio Baldovinetti si compiace di introdurre nei suoi dipinti. Quell'uomo aveva innegabilmente il senso del paesaggio, innegabilmente». La signorina Bartlett non aveva mai sentito nominare Alessio Baldovinetti, ma sapeva che il signor Iger non era un cappellano qualunque. Era membro della colonia residente che aveva prescelto Firenze a fissa dimora. Conosceva le persone che non giravano mai col Baedeker, che avevano imparato a fare la siesta dopo colazione, che andavano in carrozza a vedere certi luoghi di cui i turisti delle pensioni non sospettavano l'esistenza e che, grazie a interventi autorevoli, visitavano gallerie private il cui accesso era precluso ai meno fortunati di loro. Quelle persone vivevano in raffinato isolamento, alcune in appartamenti ammobiliati, altre in ville rinascimentali sulle pendici di Fiesole, e leggevano, scrivevano, studiavano e si scambiavano le rispettive idee, pervenendo in tal modo a quell'intima conoscenza, o meglio percezione, di Firenze, che è negata a quanti portano in tasca i coupon di Cook. Un invito del cappellano era quindi motivo d'orgoglio. Fra i due settori del proprio gregge, egli formava spesso l'unico anello di congiunzione, ed era sua dichiarata consuetudine eleggere quelle pecore migratrici che giudicava degne e concedere loro un paio d'ore nei pascoli del permanente. Il tè in una villa del Rinascimento? Nulla era stato ancora detto in proposito, ma se si fosse arrivati a tanto, come se la sarebbe goduta Lucy. «Questa piazza medesima, a quanto mi si dice», disse il signor Iger, «è stata ieri teatro della tragedia più sordida immaginabile. Per chi ama la Firenze di Dante e del Savonarola c'è un che di funesto in una profanazione simile. Funesto, nonché umiliante». «Umiliante davvero», ribadì la signorina Bartlett. «Per pura combinazione mia cugina passava dalla piazza mentre avveniva il fatto. Non sopporta nemmeno di parlarne», e sbirciò orgogliosamente Lucy. «E come abbiamo potuto permettere che lei fosse presente?» chiese il cappellano in tono paterno. A questa domanda il recente liberalismo della signora Bartlett sfumò per incanto. «Non la biasimi, signor Iger, la prego. La colpa è mia. L'avevo lasciata uscire senza chaperon». «Lei era sola, dunque, signorina Honeychurch?» La voce dell'ecclesiastico suggeriva un rimprovero amorevole, ma al tempo stesso indicava che alcuni particolari raccapriccianti non sarebbero stati sgraditi. Il suo volto scuro, dai lineamenti armoniosi, si chinò lugubremente verso Lucy per cogliere la risposta. «Più o meno. Una delle nostre conoscenze della pensione ha avuto la bontà di accompagnarla a casa, disse la signorina Bartlett, celando astutamente il sesso del soccorritore. Deve essere stata un'esperienza terribile anche per questa persona. Mi auguro che nessuna delle due si sia trovata, che non sia accaduto addirittura sotto i vostri occhi. Fra le tante scoperte che Lucy andava compiendo quel giorno, la meno singolare non fu certo il macabro prurito che un fatto di sangue provoca nella gente rispettabile. George Emerson aveva mantenuto l'argomento stranamente puro. «Credo che la vittima sia morta vicino alla fontana», rispose. «E lei e la sua amica eravamo davanti alla loggia dei Lanzi». Quella mattina così ben spesa non lasciò impressioni piacevoli nell'animo di Lucy. Sia la signorina Levish che il signor Eager l'avevano leggermente impaurita senza che ne sapesse il motivo, e, strano a dirsi, proprio perché la impaurivano aveva smesso di rispettarli. Dubitava che la signorina Levish fosse una grande artista. Dubitava che il signor Eager fosse così ricco di spiritualità e di cultura come era stata indotta a credere. Venivano sottoposti entrambi a un nuovo tipo di esame e giudicati insufficienti. Quanto a Charlotte, Charlotte restava esattamente la stessa. Era forse possibile essere buoni con lei, era impossibile volerle bene. Figlio d'un manovale, questo mi risulta in via assoluta, e quando era giovane lavorava da meccanico o qualcosa del genere, poi si mise a scrivere per la stampa socialista. Ebbi occasione di conoscerlo a Brixton, stavano parlando degli Emerson. «Straordinario come certe persone facciano strada oggigiorno», sospirò la signorina Bartlett giocherellando con un modellino del campanile di Pisa. «Per lo più il loro successo ispira soltanto simpatia. Il desiderio dell'istruzione e del progresso sociale presenta un lato non del tutto spregevole. Vi sono degli operai che saremmo disposti a vedere qui a Firenze, pur senza farci troppe illusioni circa il profitto che ne trarrebbero». «E ora il padre è sempre nel giornalismo?» domandò la signorina Bartlett. «Ma che?» fece un matrimonio d'interesse. Il reverendo pronunciò questa frase con voce carica di sottintesi e la finì in un sospiro. «Dunque, ha moglie?» «È morta, signorina Bartlett, è morta. E mi meraviglio, sì, mi meraviglio che egli abbia l'impudenza di guardarmi in faccia, che osi vantarsi di conoscermi. A Londra, molti anni fa, abitava nella mia parrocchia. L'altro giorno, quando era in Santa Croce con la signorina Honeychurch, l'ho umiliato pubblicamente. Stia attento che non abbia a capitargli qualcosa di peggio di un'umiliazione». «E cioè?» gridò Lucy, arrossendo. «Di venire smascherato», sibilò il signor Eager. Tentò quindi di cambiare discorso, ma nel segnare al proprio attivo un punto drammatico, aveva destato l'interesse delle ascoltatrici più di quanto non si fosse proposto. La signorina Bartlett non stava più in sé dalla legittima curiosità. Lucy, pur augurandosi di non rivedere mai più gli Emerson, non era propensa a condannarli in base a una semplice affermazione. «Lei vuol dire che è un uomo senza religione?» chiese. «Questo lo sapevamo già». «Mia cara Lucy», disse la signorina Bartlett in tono di blanda riprovazione per l'acume della cugina, «mi stupirebbe assai che sapeste tutto. Il figlio, a quell'epoca un piccolo innocente, lo escludo senz'altro. Sai Dio cosa possono avere fatto di lui l'istruzione che ha ricevuto e il carattere che ha ereditato. Forse», insinuò la signorina Bartlett, «si tratta di qualcosa che è meglio per noi non ascoltare. Se debbo parlare chiaro, è meglio. Sì, non dirò altro». Per la prima volta i pensieri ribelli di Lucy scaturirono in parole, per la prima volta in vita sua. «Lei ha detto pochissimo». «Era appunto mia intenzione dire pochissimo», fu la frigida risposta. Il signor Eager fissò indignato la ragazza, che sostenne il suo sguardo con pari indignazione. Si era girata verso di lui dal banco del negozio, il seno palpitante per l'affanno. Egli osservò la sua fronte aggrottata, la forza subitanea delle labbra, e gli fu intollerabile non essere creduto da lei. «Se proprio vuole saperlo, c'è di mezzo un delitto», gridò rabbiosamente. «Quell'uomo uccise sua moglie». «E come?» ribatté Lucy. «La uccise virtualmente sotto ogni aspetto. Giorni fa, in Santa Croce, le hanno detto nulla contro di me, quei due?» «Neanche una parola, signor Eager, neanche una sillaba». «Ah, credevo che mi avessero calunniato ai suoi occhi. ma immagino sia soltanto il loro fascino personale che la spinge a difenderli. Io non li difendo, protestò Lucy. Non ho niente da spartire con loro. Signor Iger, come ha potuto pensare che Lucy li difendesse? Disse la signorina Bartlett, parecchio sconcertata dalla scena incresciosa. Probabilmente il negoziante li stava ascoltando. Le sarebbe difficile farlo, poiché quell'uomo ha ucciso sua moglie al cospetto di Dio. La giunta di Dio fu sorprendente, ma in realtà il cappellano intendeva tentare di attenuare una dichiarazione avventata. Seguì un silenzio che avrebbe potuto essere solenne, ma che fu puramente imbarazzante. Quindi la signorina Bartlett si affrettò a comprare il campanile di Pisa e uscì in strada per prima. «Bisogna che vada», disse il signor Iger, chiudendo gli occhi e cavando di tasca l'orologio. La signorina Bartlett lo ringraziò per la sua gentilezza e menzionò con entusiasmo la prossima gita. «La gita? Ah, dunque avrà luogo la nostra gita?» Lucy ubbidì al richiamo della buona educazione e, dopo qualche sforzo da parte sua, fu ripristinata la compiacenza del signor Iger. «Al diavolo la gita!» esclamò la ragazza non appena il reverendo fu scomparso. «È esattamente la stessa che avevamo combinato col signor Bibb senza tutte quelle storie. Che bisogno aveva quest'altro di invitarci in maniera così ridicola? Tanto valeva che fossimo noi a invitare lui, dal momento che ciascuno pagherà per sé». L'osservazione di Lucy mutò radicalmente il corso dei pensieri della signorina Bartlett, che si era prefissa di deplorare la faccenda degli Emerson. «Quando è così, mia cara, se la gita che noi e il signor Bibb dobbiamo fare col signor Iger è davvero la stessa che dovevamo fare col signor Bibb, prevedo una grossa frittata». «Perché?» «Perché il signor Bibb ha invitato anche Eleanor Lavish». «Questo significa che ci vorrà un'altra carrozza». «Peggio, peggio! Il signor Iger non vede di buon occhio Eleanor e lei se n'è accorta, la verità va pur detta. È una donna troppo spregiudicata per i suoi gusti». Poi mormorò: «Che sia il signor Bibb che ha dimenticato di dirlo al signor Iger, o che sia il signor Iger che se n'era dimenticato quando lo ha detto a noi, o che abbiano deciso fra loro di escludere addirittura Eleanor. Questo però stento a crederli capaci di farlo. In ogni caso dobbiamo essere preparate. È a te che tengono sul serio. Io sono stata invitata solo per salvare le apparenze. Tu andrai con i due uomini, e Eleanor e io vi seguiremo nella seconda vettura. Per lei e me sarà sufficiente una vettura a un cavallo. Eppure, come tutto è difficile». «Lo è davvero», rispose Lucy con una gravità che parve dettata da comprensione affettuosa. «Tu cosa ne pensi?» domandò la signorina Bartlett. «Non so cosa penso, e non so cosa voglio». «Misericordia, Lucy, spero che tu non sia già stufa di Firenze. Non hai che a dire una parola, lo sai bene, e domani stesso ti condurrò in capo al mondo». «Grazie, Charlotte», rispose Lucy, «e ponderò l'offerta». Tommaso Ragno ha letto Camera con vista di Edward Morgan Forster, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it.